domanda, ma quando tu vai in casino, non sono sempre io, ma faccio... Grido, cioè, non vanno, che porta non si vanno, sono travagliatori, può pagare. Se tu non lo paghi non va a travagliare. Cazzo di aria. È come che adesso mi cosa, fammi licenziamento subito che io guardo, ma avete che cosa in busciacca, non per smenarvi, e cos'è? No, non penso più, americano, non me la muore nel culo americano. E infatti, cazzo di diavolo, è che mala sorte. Vanno proprio disperati quelli che non possono fare altro, capito? Se no l'azienda via Sarrazzo, se la via Battueta, lo si vidi alla sura. È uno schifo, Natalia, è uno schifo, veramente. In Italia è proprio uno schifo. È proprio uno schifo, veramente. Mi vergogno di essere italiano, cazzo, per carità. Uno peggio dell'altro. E infatti. In Germania sono pagati tre voci di canto bigli du, tre volte in più mi sono pagati. In Francia due voci in più, il doppio pigliano di lui, in Francia, in Germania tre volte. Sì, ma non andiamo lontano, lontano, ma anche dove ero prima, su a Milano, a Lecco, zona di Lecco, lì sei pagato bene. Che cazzo se ne affrutta di ricordo, io non dico, io cazzo mi dico, ma siamo tutto in Italia, perché da cazzo mi danno torto, e nell'acqua mi danno l'acqua torto, e no che cazzo, io non ne capisco la mazza. E infatti, perché anche in continente sono sfruttati, però pigliano sempre più di voi. Allora, dove vivo io su, facevo un berione la terra, lascia perdere, però avevi la servizio di prendere soli perché li prendevi, anche li bigliavi, e ci avevi tutto pagato, ferie e tutto quanto. Ma io che non prendi nulla, non mai cazzo dava lì gratis, anzi, non mai, siamo cavalieri gratis, noi non mai no. Infatti, se ti vedi devi pagare tu patinizi. Ah, guarda, mi viene solo il nervoso a pensarci, va. E poi devo andare pure il campeggio. Vatti la pure in culo, tu e lo campeggio. Non vado a andare io in campeggio senza denaro, dico. Io già glielo ho detto, io vado a lavorare per avere qualche cosa in tasca, non per smenarci. Non è che vado a lavorare per smenarci e per grassare il culo a voi. Io l'ho già detto. E si è cagliato molto. E poi frutto si è cagliato molto, che era in Turchia. Che altro è andato a vagliare a Barossa? Fai uscire in campo con qualche cazzo di continentali, che bisogna, i vasi, dopo ti tocca a fare la mamma, sì, divi. Ti canti in pari, in massa. No, che cane blu più, Manuele non c'è, avete preso nuove guardie, prendetevi le nuove, che non valgono un cazzo, fate la gente, mandi la vita a Udi, senta un pacco di matatini. Sì, infatti, sono anche gente che non ha esperienza, non travaglio così facili chi sono. Poi si hanno messo uno, cazzo, lì dove faccio servizio io a controllare entrate, uscite, mettere il numero della targa, e la scendi di capo, no, io non faccio la notte, cosa? Tu vai la dico come ti l'avremo noi. Cazzo fa la notte, cos'è? Dormi pure la notte. Grazie. Bedareni. E cos'è? Cazzo pugliese vuoi dico, non è manco un sacco. E cos'è? Vuoi pigliare Barucco la babbo che codia? No, non penso proprio. Grazie di era troppo difficile a mettere le targhe, entrate, uscite, quelle cose lì, no. Cazzo, dimmi tu. Ehi, ma io non conosco questo, non conosco... Abbiamo imparato tutti, come abbiamo imparato noi devi imparare anche tu. Quando non conosce nessuno gli ho detto chiudi il cancello, quando devono uscire chi è lì? Tot, nome e cognome, tot, segna, non c'è niente da avere paura. Infatti. domanda care è, cazzo, noi più a si discrimina, no, paghi su, e segni, cazzo, nome, cognome, targa e orario, tu entra quando esci, così è. E allora così deve fare, ma io lascio tutto a poco perché riconosco, io ormai riconosco a faccia, sono i nomi, i cognomi, io ormai ci sono un anno, quasi un anno e 8 mesi lì, e quindi so chi sono e chi non sono. E infatti. E chi dubbi mia, va, non mi rammento, che si mi avevi fatto ridire a voi, c'è chiesto. A poco cosa se ce l'hanno mandato, non c'è più da noi. Cazzo, vabbè, ci siamo lamentati io, un altro collega mio, cazzo, devo supporre a Marisco. Non veniva, cazzo, ne aveva una. Ah, non si, sì. Cazzo, yeah. E così ti dovevi fare, tu ero di lastri. E la rimbocca una cubicia, va, per carità, cazzo volevamo andare a metà noi. Sì. Un ubicio la rimbocca. E lui, ah, questo quando arriva, cioè, non posso prendere il sole, non posso stare alla luce del sole, allora cattiva anche il sanduia. Davvero? Oh, Gio Maria, buongiorno. Buongiorno, Valve, buongiorno, Salina. Davvero, oh, yeah. E beh, la stai come va? Ehi, Giammari, sempre a duro, risogu. A rimane ha giocato una DAC. Da voi devo andare, la Diozzo devo andare a fare un'altra visita dall'endocrinologo. Devo andare. E sono sempre con questi dolori, cazzo. A forza di bruffa, insomma. Ah, io non so passare ancora, cazzo. E c'ho sempre allerta di questi dolori, così è. Allora, dolori, cazzo, allucinanti, Gian Marì. Cazzo. Io pensavo che mi passavano in un paio di lì, invece, oi oi, a dove passare? Oh, cazzo. È vero, si è andato a dire qualcosa che c'è dolore ancora. E adesso, tanto devo salire a pigliare la cartella clinica per il giorno 8, no? Perché sono loro che mi stanno facendo fare questi esami qua. E vi lo dico, ma regolari, so che ci dolori, anche io so che sempre a dolori, non posso dormire, non posso fare, boh. E poi si immagina voi, per carità, caro Pirano, non sa che ci dolori, così è poco particolare, poi ma speriamo bene allora. Avanti, Manuele. Sì, mi aspetto un attimo, Gio Marì, riprendete voi, riattacco su, fa un 5 minuti. A mangiarci, vabbè, però. No, mi sto preparando la roba, cazzo a mangiare. Fa poco, ma a mezzo di mano, che casino mi ha dato a mangiare 2 mesi. Beh, mi raccomando, fatti con Zavona, lo stretti, in modo da... stai sveglio, D'accordo, vai pure, là. No, già ho dimagrito, Fai tranquilli, li ho calati giù, Adesso se mi vedi, cazzo, devo uscire con i piombi quando ho cervetto la mattina. Ma, Natalia, mi credi che ti riduito 3 tacchini? Cazzo, era giusto quella pasta, ma non per la gravità. Grazie, via. Sa di magrito 30 kg, cazzo, canta in me. Vai. Sto bene di solo, però se no vi credi, davvero, Manuele, di 30 kg. Veramente, Gio Marì, e sono più magro di Natalina adesso, Se mi vede sono una lacra, sono. Sei così come dici tu, allora va bene, dai. Allora vi crediamo, dai. Io sono diventato davvero una larva umana. Ho anche dimagrito, cazzo, guarda. Infatti, quando andò a pigliare la casella clinica, vi lo dico, vi disse regolare i dolori, ancora passami, una cosa allucinante, Gio Marì. Sì, posso immaginare, oia. Ripeto, caro Piano, non sai queste cose, oia. Ma, speriamo che finisca subito, cazzo, questi dolori, cazzo. Oia, io se tu dici già. E da quando mi hanno dimesso se ho sempre a dolori. Sempre a dolori. È una cosa, ragazzi, allucinante. a chi l'ha provato, chi lo so, se no non fa più creduto, chi duravano così assai. Gli drone lo fai, grazie, no via. Dale gioco a che cosa io, per questa tu. 4 mesi io, oh yeah. Senti in una posizione dritto, scuffato, duro la macchia dritta, come se mi volevi a un capo che mi girava la casa sotto sopra. Io me lo posso immaginare, me lo posso immaginare, che non l'hanno usato, cosa si basa in queste situazioni. Che a cama a terra di gioco farato, è vero, tutto troncato, il rugnone, io voglio, ero gondo, mamma mia, si mi godi appena appena lo capo, si virava tutto, si virava, cazzo, oh, pare a battenti, oh, forse la Madonna, cazzo, delle grazie che mi ha salvato a me, a chi sono entrato, proprio quando per la processione, la danza di Pilar, sono entrato io, ripilare io la busta, lui ha ancora gioco fa vedere, meno male, va. E sarà stata la Madonna, vero, ti ha salvato. Ha giù passato la chiccio, cazzo. E non me ne dimentico mai, ero ciò che mi sono giù passato 4 mesi, lui ha povero me. E ritrovo il gioco, se vuol dire. E infatti, a chi non mi raga rifusare, no, non riesce a pigliare sonno mi. Tutti loro di la notte in conto, Gio Marì. Ma è così, infatti, è d'altro meno uno, come si fa con tutti questi errori, uia, la fai, no, uia, uia, il culo che fa il mezzo. Posso immaginare che errori. Però è strano che è ancora passato in piazza ora. Ma già la chiesa così è. E io quasi desidisso da cosa che si dica. Non è meglio la compresa, no? Speriamo bene, là. Speriamo bene a stare lì. Vabbè, ci sentiamo più tardi a stare lì, se è coincida, dai. Che sono faccettato con la signora qua. Ciao, ciao. E auguroni ancora. Grazie, ciao Gianmarie, ciao. Buon proseguo.